got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, bentornati a questo appuntamento di Radio 24. Indovina chi viene a cena questa sera a Radio 24. C'è un profumo di formaggio, mi sembra, sì, è proprio formaggio di capra, direi, prodotto in Trentino da un'azienda agricola, la Capra Felice. E questa sera abbiamo con noi come ospite Agitu Ideo Gudetta. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per essere con noi. Lei è la titolare di questa attività, la Capra Felice, lo ripetiamo, questa azienda agricola in Trentino, ma non è trentina, giusto? Io sono di origine etiope, da 5 anni ho avviato l'attività dell'allevamento e la trasformazione del prodotto e la vendita diretta. Però sono arrivata in Italia in generale quando avevo 18 anni per motivi di studio e poi sono tornata in Etiopia dopo finiti gli studi con un progetto di agricoltura sostenibile per i vari villaggi. Sono rimasta in Etiopia facendo avanti e indietro Italia-Etiopia fino a 2010 e nel 2010 ho avuto dei problemi legati al land grabbing, ovvero all'accaparramento dei terreni a favore dei multinazionali, questo nuovo fenomeno che sta colpendo diciamo tutta l'Africa, e vuol dire che i nuovi investitori che entrano verso questi paesi acquistano appezzamenti di terreni enormi per ovviamente degli allevamenti intensivi o le coltivazioni intensive da esportazione, e quindi questo crea a livello impatto ambientale e anche culturale, cioè non in modo positivo, no? E poi alla fine la cosa avviene non in modo democratico. E quindi iniziando a protestare la mia contrarietà a questo nuovo progetto del governo, e ho avuto dei problemi col governo e quindi per me non era più possibile rimanere in Etiopia e sono emigrata di nuovo verso il Trentino. Oltretutto poi il Trentino è il posto che io amo per eccellenza, perché è un paradiso terrestre, con un progetto di recupero dei terreni abbandonati e delle razze locali abbandonati. Ho iniziato questo progetto di allevamento con un impatto ambientale molto ridotto, quasi niente, praticamente si pascola, il prodotto è dal pascolo e quindi si riesce a recuperare anche le zone imboscate. Lei praticamente ha un gregge di capre, no? Di 70 capre, sì. 70 capre. 50 galline ovaiole e un po' di ortaggi. Molte di queste capre sono di una razza, tra l'altro, a rischio estinzione. Sì, la pezzata moccana, tipicamente trentina, che era a rischio di estinzione. Io sono venuta a conoscenza di questa razza che ho scoperto tramite una tesi trovata, che c'era questo recupero da parte del progetto di questa razza, così ho deciso di prendere questa razza, appunto perché l'impostazione della mia attività era appunto senza la stalla, cioè come i miei antenati, di poter pascolare, stare fuori con gli animali tutto l'anno, no? Ah, quindi no, voi pascolate tutto l'anno? Anche in dice, a parte le giornate che nevica, siamo tutto l'anno fuori. com'è la sua giornata? Allora, la giornata a tipo parte alle 4:30 con la mungitura alle 5 e poi porto fuori le capre al pascolo. Di solito faccio il pascolo con a rotazione, vuol dire che ogni 15 giorni faccio sposto il recinto per 15 giorni, riesco a pascolare uno spazio, no? Per evitare il troppo fermo degli animali, per non danneggiare troppo il cotico erboso, e ogni 15 giorni si sposta il recinto, così quando torniamo di nuovo dove siamo partiti troviamo i ricacci, i germogli buoni, no? E nel frattempo io durante la giornata, dopo la mungitura, portati fuori le capre al pascolo, torno in caseificio con il latte, inizio a fare il formaggio. E poi il pomeriggio di solito è dedicato alla vendita fino alle ore 17 ritorno dalle capre, recupero dal pascolo le capre, faccio la mungitura e torno in caseificio con il latte, i lavaggi e poi si va a nanna. Una giornata uguale. Molto faticosa. sì, intensa. Insomma, senza sosta. Però le sue capre sono davvero felici, perché insomma pascolano all'aria aperta con questa rotazione che ci spiegava, no? Certo, assolutamente, perché vivono praticamente nella loro habitat naturale e poi rispondono anche, no? Lo trovo anche in qualità del latte, il loro benessere comunque alla fine è ripagato. Per fare un prodotto di eccellenza qualità bisogna partire dal benessere degli animali, dalla loro alimentazione, no? Non è soltanto il saperlo trasformare, ma la loro alimentazione e il loro modo di vivere è fondamentale per ottenere un prodotto sano e buono, ecco. Un inno alla natura che le ha meritato il premio Resistenza Casearia di Cheese Slow Food 2015. Una bella soddisfazione. Ma assolutamente sì, non ci credevo neanche. È stata veramente una bella soddisfazione, sì. Lei è laureata in sociologia, ha studiato sociologia a Roma, no? Sì. Come è finita una sociologa a far pascolare le capre? Allora, quando sono tornata in Africa, io ho lavorato nei villaggi in giro con gli agricoltori, con i contadini, e in Africa ho scoperto proprio il mondo agricolo e le capre. In ogni villaggio che si va ci sono queste capre che hanno un'interazione molto particolare anche con i contadini e si vive in sintonia molto bene. Poi ho scoperto che sono animali fantastici e anche come allevamento si riesce a fare un allevamento con quasi zero impatto ambientale. E questo è un punto che lei vuol tenere fermo, no? Assolutamente, sia per la dimensione, proprio essendo così minute non rovinano il terreno, no? E poi abbiamo subito i ricacci e non dobbiamo neanche somministrare tante sostanze, no? Di integrazione di cereali, che oltretutto noi non abbiamo abbastanza spazio per produrre, vuol dire comunque acquistare i mangimi, ma con le capre è diverso, è un animale molto minuta che richiede meno integrazione, che pulisce, che si ciba del territorio, e quindi ho trovato proprio un'attività assolutamente in sintonia con l'ambiente, e anche proprio per il loro carattere. Sono molto intelligenti, la mattina li porto fuori al pascolo, la sera li ritrovo anche la mungitura, sono molto abitudinari, quindi si fa senza tanta fatica, ecco. E oltretutto poi anche a livello nutrizionale il latte di capra è di eccellenza qualità per il nostro organismo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Il suo lavoro non si conclude con la mungitura, ma appunto consiste anche nella produzione di questi formaggi con il latte di capra, formaggi a pasta dura, formaggi a pasta molle. Noi parliamo spesso di cucina per cercare di trovare fra le pieghe dei discorsi sulla cucina l'identità delle persone e a volte le radici straniere che queste persone hanno. Il latte di capra viene utilizzato anche nel suo paese, in Etiopia? Assolutamente sì, perché diventa un'alimentazione base, soprattutto per i bambini, di autosufficienza. I nostri contadini non hanno una produzione che avanza per vendere, ma di autosufficienza. Però è un prodotto ben utilizzato in cucina quotidiana. Quali sono ad esempio i formaggi che si mangiano in Etiopia? Ricotta che non il formaggio, anche non avendo il clima adatto per stagionare, si utilizzano i formaggi freschi spalmabili con le spezie, con le erbe, però vengono consumati entro 5 giorni massimo, e si fa lo yogurt con le varie spezie altrettanto. In Trentino chiaramente c'è un clima completamente diverso. Voi fate dai formaggi a pasta dura alla robiola. Ci racconti un po' dei prodotti che lei produce e gli abbinamenti che ci consiglia, visto che spesso il formaggio viene abbinato a magari a delle marmellate o certo, a delle confetture. Sì. Allora, in primavera faccio le freschezze di primavera, perché abbiamo il pascolo molto fresco, molto profumato, ricco di fiori, e quindi di conseguenza il latte ne risente, lavorando latte crudo senza la pastorizzazione, col latte innesto, e troviamo proprio il pascolo nel formaggio, no? E quindi si riescono a fare dei formaggi molto delicati, molto freschi, che poi abbino con i fiori del prato commestibili che raccolgo, il sicco, e poi dopo passiamo verso l'autunno, che inizio a stagionare, perché passa un mese o due, si inizia ad avere dei vari tipi di stagionati, dalla crosta fiorita, la pasta molle, ma pasta dura, che possono essere abbinati sia con delle confetture o altrimenti anche il miele. Ci ha fatto venire fame anche a tarda serata. Formaggi, quindi abbinamenti di formaggi, anche profumi e spezie che ci raccontava, arrivano anche tradizioni che arrivano anche dal suo paese d'origine, l'Etiopia. Come mai a 18 anni è partita dall'Etiopia per venire in Italia? Io ho fatto una scuola privata dagli italiani, e quindi io avevo veramente tanta curiosità di visitare Roma. E così ho partecipato a questo concorso per avere la borsa di studio, ho vinto il concorso, così sono partita con la borsa di studio per l'Italia, ecco. La difficoltà sulla comunicazione, perché era difficile ai tempi trovare qualcuno che sapeva parlare l'inglese, io non parlavo l'italiano, quindi l'impatto sulla comunicazione era abbastanza difficile. E poi una volta imparato la lingua italiana non era più difficile, Roma era affascinante. Anche a oggi, ormai il Trentino è la mia casa, difficile che possa esserci ostilità, ormai sono ben integrata. Un Trentino caldo scopriamo con lei e ci fa piacere. Sì. Allora, i Trentini è un popolo davvero, può sembrare un popolo freddo perché comunque dovuto anche alle nostre montagne, al clima e tutto quanto, però poi dopo in fondo gente eccellente, io amici. Vivo qua da diversi anni, non ho parenti qua o familiari, ma ho amici che mi fanno da genitori, da fratelli, da sorelle, sono sempre il popolo trentino, ecco. E poi ci raccontava di questa sua andare in Africa nuovamente per aiutare i contadini di una zona precisa, no, dell'Etiopia. Sì, la base era Mojo. Mojo. E poi ci siamo spostati, mi sono spostata in vari villaggi. Lei all'inizio di puntata ci ha proprio raccontato della sua delusione quando, tornando in Etiopia, ha scoperto questo fenomeno del land grabbing, della terra dei contadini che viene espropriata dalle multinazionali, a volte cinesi. In questo caso di che nazionalità erano? Allora, di multinazionali assolutamente. Parliamo degli indiani e Emirati Arabi che hanno preso delle estensioni enormi per fare la produzione e esportare, per loro parliamo da frutta, ortaggi, e poi la produzione di canna da zucchero e olio di palma, tutto da esportazione, e poi senza parlarne delle dighe che vengono realizzati sempre a danno dell'impatto ambientale, cultura locale, perché comunque questi pastori nomadi che vivono in quelle aree lì sono obbligati a lasciare i loro spazi. Ma questo accaparrarsi di terreni avviene per esproprio, quindi dei... Per esproprio forzato, assolutamente non è consentito, la resistenza... Dire questo è il mio terreno, non vado, non è concesso, e viene assolutamente per forza da parte del governo militare. I contadini in qualsiasi momento devono assolutamente... Quindi con il placet del governo? Sì, questo cioè, tramite il governo, è il governo che prende il terreno dal contadino e lo dà al multinazionale. Ci sono anche i francesi che si sono presi in mezza Etiopia per fare la coltivazione del vigneto e il vino da esportazione. Stiamo parlando poi, il PIL dell'Etiopia cresce, nei villaggi le scuole stanno chiudendo perché non ci sono risorse per tenere aperti le scuole o anche l'assistenza sanitaria, perché poi quando ci sono queste coltivazioni intensive, le fabbriche, le industrie, ovviamente aumentano i casi tumorali, gli ospedali non ce ne sono che riescono a garantire assistenza ai contadini, i contadini diventano sempre più poveri, addirittura a rischio di carestia, dipendono dagli aiuti internazionali del cibo, no? È assurdo, si produce, si esporta e poi abbiamo la nostra popolazione che soffre ancora la fame. e, come ci raccontava all'inizio, ha subito delle minacce governative e a questo punto ha dovuto andarsene. Certo, cioè per me... Di cosa l'hanno minacciata? Arresto per atti terroristici e atti terroristici, istigazione alla violenza. E questo, cioè, il terrorista, chiunque protesta per qualsiasi cosa è un terrorista. I giornalisti che denunciano, che sono per i diritti umani, stiamo parlando dei human rights, il survival, Amnesty, i giornalisti che lavorano per queste organizzazioni per i diritti umani vengono considerati dei terroristi che non possono stare in Etiopia, no? È una situazione abbastanza difficile anche per i ragazzi dei contadini, perché comunque protestare la propria contrarietà non è consentita. Abbiamo un governo militare che veramente usa tanta forza verso il proprio popolo. Stiamo parlando dell'esterminazione anche di una tribù intera per realizzare una diga. E lo ricordiamo al nostro pubblico, lei è molto coraggiosa a dire queste cose pubblicamente, perché il governo etiope, come il governo eritreo, insomma, anche all'estero hanno degli orecchi che ascoltano. Insomma, lei è tornata in Italia ed è andata in Trentino. Il Trentino l'ha accolta in questa Valle San Felice, così si chiama quest'area, no? Sì, dove lei si trova? Sì. Quando sono tornata dall'Africa, comunque ero anche a livello emotivo, ero abbastanza provata. Era un viaggio molto forzato, perché se rimanevo in Etiopia finivo in prigione o, come gli altri ragazzi che non si sa dove sono, cioè il mio destino sarebbe stato quello. Appena arrivata avevo ancora amici qua in Trentino, quindi ho iniziato a cercare il lavoro, ho trovato un lavoro in un bar, ho accettato subito, e così per potermi pagare l'affitto e le mie spese, e quindi ho iniziato questo lavoro al bar e in annesso ho attivato subito questo il mio progetto di recupero dei terreni, delle razze, partendo da 15 capre, e ho portato avanti il lavoro del bar, anche dell'allevamento, fino a 2014. Quindi anche ore di lavoro abbastanza impegnativi. Abbiamo capito che lei non ha paura di lavorare, questo l'abbiamo capito bene. E tra l'altro ha dato nuova vita a una zona a rischio abbandono. Sì, questa zona non veniva coltivata da più di 20 anni, quindi i terreni, il prato veniva mangiato dal bosco, e quindi una bella bonifica, no? Il fatto di pascolare rigenera il terreno. Si interviene anche dall'avanzamento del bosco, si concima il terreno, quindi vedi anno per anno che la vegetazione è più rigorosa, migliora, e quindi, diciamo, in sintonia un progetto che valorizza il territorio attraverso il prodotto, quindi un po' tutto in sintonia, diciamo, ecco. E prima di salutarla, vogliamo ricordare il sito internet della sua azienda, così chiunque volesse anche ordinare, no? Perché voi fate anche un servizio di questo tipo, lei fa anche un servizio di questo tipo, di mandare a domicilio il formaggio biologico prodotto con caglio vegetale, prodotto da lei. Certo, assolutamente sì. Il sito per la vendita del prodotto www.lacaprafelice.com. Grazie per essere stata con noi ad Aghito Ideo Gudeta. Grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata. E grazie anche a tutti voi che siete stati in ascolto di questa puntata. Io vi rinnovo l'appuntamento a sabato prossimo con Indovina chi viene a cena. Da Valentina Furlanetto l'augurio di una buona serata. Ciao, a sabato. You've got to give a little. That's the glory.